avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant. Sono perfettamente e crudamente consapevole che oggi il tema del giorno che tutti si aspettano è racchiuso nella frase pregnante e sintetica: la patonza deve girare. Ma non è di questo che voglio parlare, anzi, lo cito perché vorrei creare un'atmosfera in totale antitesi rispetto a questo termine. Se per qualcuno la patonza deve girare, ci fa piacere, ma esistono altre mille impalpabili maniere per sentire nell'aria l'idea della fascinazione, l'idea dell'attrazione, l'idea di qualcosa che potrebbe accadere. Molte volte accade, non sempre accade. E cosa facciamo noi per fermare quell'istante, quell'attimo? Andiamo a un esempio molto pratico. Chi capita di girare nelle città, in quei luoghi che erroneamente vengono ancora chiamati non luoghi, quando in realtà sono luoghi che in realtà lasciano tracce indelebili di persone. Basta essere attenti, basta avere lo sguardo rilevatore, basta avere una sorta di sensibilità nel cogliere gli sguardi che ci attraversano col desiderio di lasciare addosso noi una traccia. Capita molte volte, non lo so, nell'uscita frenetica di una stazione o in un vagone, in un convoglio in metropolitana, incrociare lo sguardo di una persona. Non è soltanto uno sguardo, a volte è anche una sensazione olfattiva, a volte è uno sfiorarsi, a volte è un semplice cedersi il posto. Sono attimi profondamente e allo stesso tempo profondamente forti per la nostra esperienza, allo stesso tempo ineffabili, impalpabili. In quegli attimi uno vorrebbe che accadesse tutto. Incontra una persona e è incuriosito fortemente da questa persona, uomo, donna, vecchio, qualunque cosa sia rappresenti, qualcosa che ci colpisce. Una folla indifferente, immaginiamola colorata di grigio, soltanto una persona è a pieni vivi di colori. La persona in quel momento ci lancia il messaggio o recepisce il nostro messaggio, si coglie un sorriso, si vede uno sguardo, si è colpiti da una particolare movenza, da una flessuosità di un corpo, una maniera di porre le mani, da un accessorio, da un oggetto. Poi si apre la porta della metropolitana, la persona scende, o noi scendiamo, o nella stazione ci si perde nella folla. E cosa accade? Accade che si vorrebbe lasciare un messaggio a questa persona, si vorrebbe rincontrarla. Vagamente, vanamente, molte volte si rifà lo stesso percorso il giorno dopo, si riprende lo stesso treno, si cerca di essere allo stesso orario in quello stesso posto, cercando di ricreare questo istante in cui potrebbe riaccadere l'incontro, ma molte volte è molto difficile che accada. E allora si entra in alcuni stratagemmi. Uno lascia un segnale, lancia un messaggio in bottiglia, lo scrive sul muro, oppure usa quella sorta di bacheche a disposizione di tutti, che sono magari alcune rubriche sui giornali di Free Press che raccogliamo nelle stazioni del metropolitano. Ne sono pieni di queste rubriche. Fabrizio Intonti, che assieme a me lavora alla trasmissione Melog, le ha immortalate in una sua rassegna fotografica anche molto fortunata. Sono brevissimi messaggi, a volte disperati, ma molto descrittivi di quell'attimo lì. E sperando che ci sia stata reciprocità, che anche l'altra persona abbia colto il nostro sguardo, il nostro desiderio, la nostra volontà di incrocio concreto, vada a correre quella rubrica e legga il nostro messaggio. Sono una ragazza mora. Il 5 settembre a Roma avevo il casco del motorino bianco in mano. Abbiamo preso un caffè al bancone del bar a Santa Maria Maggiore verso le 5. Tu mi hai passato lo zucchero di canna che si trovava vicino alla tua tazzina. Avevi una camicia rossa di lino e sei chiaro di carnagione, ma oltre al tuo sguardo non so nulla di te. Spero di rivederti per prendere insieme il caffè. Se leggi e ti ricordi, scrivimi. Vedete che non è poi del tutto vero che per far girare la patonza, dando a questo termine un'accezione vastissima, elemento scatenante di fantasia, di passione, di desiderio, visto che è uno stato dell'animo, una condizione dell'esistenza, non è semplicemente racchiudibile in una persona o in un particolare anatomico, può benissimo girare anche in altre maniere. In questi messaggi in bottiglia che abbiamo letto nei fogli di Free Press, abbandonati, osteggiati, maltrattati, molte volte vengono usati per sedili, vengono usati per straccio, per pulirsi le scarpe, vengono lasciati, ripresi in mano, abbandonati, la sera ancora se ne vedono delle copie stazionate sui sedili metropolitane e qualcuno ancora così distrattamente li sfoglia, li legge e tanto ci trova qualcosa. E l'unica parte immarcescibile della Free Press, quella che non perde di attualità, è proprio la rubrica di questi messaggi, che descrivono delle situazioni minimali, situazioni in sé non hanno nulla di epico se non il fatto che in quella situazione si è incrociato lo sguardo di un'altra persona. Si prende il cappuccino, si prende il caffè assieme, ci si siede, si fanno le stesse cose. A voi è mai capitato di provare questo tipo di esperienza e avete avuto il desiderio di lasciare un messaggio? Come l'avete fatto? O volete questa mattina, se per voi l'occasione per lasciare questo messaggio, chiamate 800 24 00 24. Ieri alle 20.30 eri al binario 8 della stazione Termini a Roma. Abbronzatissima, capelli castani, credo in compagnia di una tua parente appena arrivata in stazione. Ci siamo scontrati con le valigie perché non mi avevi proprio visto. Il tuo sorriso e le tue scuse hanno rigenerato la mia giornata. Grazie. Mi vengono già segnalati su Facebook un'infinità di luoghi in rete dedicati proprio a questo tipo di segnalazione. Viene segnalato un luogo in cui vengono segnalati gli innamoramenti lampo su aerei, treni metropolitane. Capita molte volte che i pochi istanti, minuti che passano con una persona seduta accanto casualmente in un vagone di metropolitana o un viaggio un pochino più consistente fatto in treno o in aereo, siano occasioni in cui possa scaturire di tutto. Perché? Perché il poco tempo a disposizione, la frenesia e le attese di una casualità che crea assemblaggi imprevedibili e a volte fantastici, aumentano il clima di un incontro fatale. E quanti di voi questo tipo di incontro lo hanno avuto? Quanti ogni mattina incontrano, si innamorano, trovano persone che sembrerebbero indimenticabili? Cosa fate per provare a rivederlo, per lasciare un messaggio o per dimostrare che queste persone hanno significato qualcosa per voi, anche se soltanto per qualche minuto? 800 24 00 24. Ti ho visto arrivare in Piazza Massimo a Palermo, aspettavi qualcuno, eri bellissimo. Allora mi sono fatta coraggio e ti ho chiesto da accendere. In quel momento è arrivato un indiano che ci ha offerto due rose. Con un sorriso bellissimo hai detto: ma neanche ci conosciamo. Quanto avrei voluto conoscerti. Poi te ne sei andato. So che non leggerai mai il messaggio, ma provare è sempre meglio di non avere mai tentato. Sto osservando le reazioni del pubblico di fronte a quello che ho chiesto, che è una cosa banalissima, semplicissima. Abbiamo parlato di tutto a questa trasmissione, ma questa volta siamo nella quintessenza della costruzione onirica di un amore che non ha nessuna consistenza probabilmente, o un amore che può aver avuto un suo seguito, una sua consistenza, che però va costruito nelle sue premesse. Non è così scontato, non è così facile. C'è un impegno, c'è una volontà precisa di riprendere in mano il filo di qualcosa che è stato soltanto per un istante nelle nostre mani. Molti mi scrivono, mi scrive Dario, dice che una ragazza l'ha incontrata a New York un'estate, l'ha notata trattante, l'ha presa, l'ha toccata, aveva una voce spettacolare. Mi stavi addosso come un guanto e mi dicesti: prendimi, sono tua. Mi spaventai all'idea di avere un altro amore da accudire, curare, bramoso le attenzioni, e così andai via, la lasciai lì. Davide dice: creai una pagina sulle ragazze semi sconosciute ai concerti rock e poi perse di vista. Non immaginate quante richieste di questo tipo ci siano sul web. Ecco, poi per capire quanto il web sia diventato una sorta di bacheca elettronica di queste richieste, abbiamo citato la loro forma cartacea, naturalmente dal supporto cartaceo sono tracimate anche nella rete. Nella rete è facilissimo lasciare un messaggio, è ancora più considerevole la speranza, questo messaggio si è raccolto da quella persona. Sapendo che esistono le bacheche in cui gli incontri fugaci e fantastici lasciano una traccia, si immagina di essere corrisposti, che altri abbiano potuto andare a vedere quella bacheca e riallaccino quel filo interrotto. Abbiamo al telefono Federico Romanzi. Buongiorno. Federico? No, non c'è più. Era il costruttore in una di queste aree web in cui è possibile fare questo tipo di lavoro. Beh, quando lo recupereremo lo avremo in questo momento. Federico Romanzi in linea? No, non c'è. Vabbè, andiamo avanti, continuiamo a far ascoltare quelli che sono i messaggi che avevamo preso proprio da questo sito. Questo è un luogo che ha qualche mese di vita, che però ci dimostra il fatto che sarebbe sufficiente creare dei luoghi di incontro virtuale, delle bacheche, in cui le persone possono lasciare i loro pensieri, di cui molte volte è difficile fare pubblica e immediata ostentazione. Sarebbe più facile dire alla persona: guarda, mi piaci, ma magari uno in quel momento rischia di prendersi uno schiaffo o rischia una reazione non controllabile o imprevista. Quindi uno fa decantare per un po' di tempo questo suo amore e poi lascia la traccia. Michele, buongiorno. Pronto? A lei è accaduto qualcosa di simile di quello che stiamo raccontando questa mattina? Sì, Michele? Sì. Sono qui, eccomi. Non riesco a sentirti correttamente attraverso né il telefono né la radio. Dovrebbe spegnere la radio, perché una o l'altra, tutte e due non è possibile. Se sì, spegne la radio funziona, mi sento. Non funziona dalla parte del telefono. Forse è meglio richiamare. No, io la sto ascoltando comunque. Ascoltami Gianluca, volevo solo dirti questa cosa. Nel sentire le tue parole nell'argomento di oggi, ho ritrovato il testo di una canzone che parla esattamente di queste situazioni. Usava esattamente le tue parole, ed è di Gino Paoli e si chiama Amori Dispari. Volevo solo raccontarti questa cosa. Io non ce l'ho presente, cosa dice esattamente questa canzone? Parla di una persona che scambia lo sguardo con un'altra su un treno, il treno sta partendo, uno dei due è sulla banchina, e racconta di queste fantasie che nascono sempre per amori che non riescono a prendere corpo perché non c'è il tempo, la situazione non lo consente. Esattamente l'argomento di oggi. È molto bella, se hai tempo ascoltala. Mi fa piacere che sia stato argomento di una canzone, ma io sto parlando di banalissime esperienze quotidiane, senza la necessaria trasfigurazione che può avere uno slancio poetico alla mano di un compositore, di un cantatore illustre che ha parlato di questi momenti, ma sono momenti che sono sempre esistiti da quando le persone hanno cominciato a incontrarsi, a guardarsi con un interesse che vada oltre la semplice riproduzione. Beh, oggi in realtà quello volevo far capire che anche nei luoghi apparentemente più anonimi, di maggior flusso di persone, in cui sembra che gli odori siano tutti uguali, gli esseri umani siano tutti uguali, spesso accomunati dalla fretta, dal desiderio di riuscire in superficie, di affrontare il lavoro o, a viceversa, la sera tornare a casa, può comunque scatenarsi qualcosa che ha un senso superiore, un senso diverso rispetto alla vita quotidiana. E appunto su questi incontri casuali, su questa volontà e necessità di lasciare poi il messaggio in bottiglia, vorrei interrogarvi questa mattina. 800 24 00 24. Cerco la bellissima ragazza bionda della Lancia Y verdino chiaro che parlava al telefono a Via dei Fiorentini a Roma e che mi ha sorriso quando mi sono girato. Dove sarei finita mai? Spero leggerai questo messaggio. Rispondimi, ti prego. Leggo qualche messaggio su Facebook che, come dicevo, è la risposta più immediata alla nostra domanda, in cui vedo un po' di reticenza nel rispondere da parte del pubblico, ma evidentemente, ripeto, è molto più facile confessare i grandi tradimenti, confessare le passioni brucianti, confessare quelle che possono essere considerate anche perniciose devianze nelle proprie condotte amorose, piuttosto raccontare questa fanciullesca, bambinesca, illusoria capacità di innamorarsi e disinnamorarsi anche magari dopo un giorno, o di rimanere tenere in memoria impresso ricordo una persona fugacemente sfiorata. Mi scrive Francesco, Amore che vieni, amore che vai, De André, è un'altra canzone che viene portata a supporto di quello che diciamo. Fosca dice, sì, mi è capitato di volerlo fare, incrociare persone per caso e sfiorare la vita e poi perderla e chiederti se avessero potuto fare la differenza nella tua. Sì, l'ho voluto e lo vorrei. Simona, sono anni che mando messaggi in bottiglia nel mio blog. Ebbene, mi è capitato che li abbia ricevuti, chi era predisposto a farlo e non il vero destinatario a cui li avevo mandati. Questa è stata la vera sorpresa, perché spesso ciò che pensi è molto lontano dalla realtà. Sì, esiste molte volte il problema della corrispondenza. Quanto le persone corrispondono poi a quel nostro sguardo? Quanto possiamo aver frainteso o esserci illusi, aver creato qualcosa di fantasmatico attorno allo sguardo di una persona? Beh, questo è un problema che coglie ogni persona in procinto di lasciare il messaggio in bottiglia. Ma devo dire che, al di là di quello, le bacheche di questi messaggi sono pieni e molte volte sono spunti poetici molto teneri, molto piccoli, molto lontani da quel concetto di Patonza che dovrebbe girare, ma molto vicini al fatto che ognuno di noi ha pieno diritto in ogni atto della propria vita anche di illudersi che uno sguardo incrociato con un'altra persona possa essere l'inizio di una storia. Ci siamo letteralmente scontrati ieri mattina nel negozio del pane mentre io entravo e tu uscivi in via Assarotti a Genova. Ho ancora il tuo profumo in mente. Sì, mi hai stregato. L'importante è anche definire una sorta di psicogeografia urbana legata ai luoghi di incontri fatali. Vedete quanto in questi messaggi sia capillare il descrivere la situazione in cui si è incrociato lo sguardo. E non sono mai luoghi particolarmente romantici, non sono mai i luoghi preposti all'incontro romantico, non è mai alla vista di un tramonto, non è mai in un giardino, non è mai in un posto favolosamente dedicato all'incontro amoroso. È in quei luoghi in cui normalmente si svolge la vita quotidiana, in cui normalmente noi passiamo per fare acquisti, per svolgere le funzioni più banali e a volte anche più meschine della nostra vita. Beh, proprio lì ci coglie impreparato il senso dell'innamoramento. Alcide, dalla provincia di Genova, buongiorno. Alcide. Buongiorno, grazie signor Nicoletti dell'occasione di poter fare questo annuncio. Sì, ma dia un senso a questa occasione, racconti la sua storia. Grazie, e guardi, è una storia un po' vecchia. Nel 79, però, che mi è rimasta nel cuore ed è stata un'apparizione quasi. Diciamo che col tempo, poi sembrava una sciocchezza, ma col tempo mi è rimasta. Ma dove è accaduto? Scritta nel cuore. È successa nel 79. Io frequentavo le magistrali a Borgottaro e oltretutto ero anche studiavo in seminario a Bedonia, che è un paese lì vicino. Quindi lei era un aspirante prete, lontano, sì, dalle tentazioni, quindi. Sì, esatto, ma è una tentazione che io però ho evitato, diciamo. C'era una ragazza vicina di banco, mia vicina di banco, alle magistrali, che teneramente, adesso ci penso, teneramente voleva avvicinarsi a me, mi faceva vedere delle foto sue, e io l'ho evitata, sia perché facevo un certo studio. Ma lei era vestito già da prete in qualche seminarista? No, allora non si usava già più, Era in borghese, sì, però sì. Sapeva che lei, diciamo, aveva dedicato la sua vita a un altro tipo di interesse. Lei lo sapeva, però magari cercava solo un'amicizia, non lo so. So che con questa ragazza io sono stato brusco e sono stato più che brusco, sono stato calpestato, forse rifiutandola in modo così netto. Temo di aver calpestato i suoi sentimenti. E col tempo, dopo tanti anni, però, che scelta ha fatto? Adesso è prete lei o no? No, ho studiato molto in seminario, però. Ma ha gettato la tonaca del titolo. Non è il desiderio di fare una famiglia, anche se poi l'ho avuta. È la paura della solitudine quella che mi ha spinto fuori. Vabbè, questo è un altro problema. Però lei si ricorda ancora questo momento di incontro fugace che lei ha subito interrotto. Perché? Perché non faccia parte del suo progetto di vita di allora. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Eri in fila al centro team con tua madre, quello di via Roma, a Torino. Io sono entrato che stavate quasi per pagare e ti è caduto il borsellino. Volevo prenderlo, ma hai fatto prima di me, ringraziandomi comunque. Che bel sorriso avevi. Spero leggerai. 800240024. Oggi stiamo analizzando la volontà, la capacità e la possibilità di lasciare messaggi in bottiglia a persone fugacemente incontrate in luoghi di passaggio, treni, metropolitane, stazioni, anche grandi strade delle città. Mi scrive Elena che a volte capita anche di avere sorprese non sempre piacevoli. Una persona con cui aveva incrociato uno sguardo ha letto la targa della propria automobile, stavano per strada probabilmente a una fila, è risalito al proprietario, è facilissimo, basta fare una ricerca sul sito dell'Automobile Club e se l'è trovato sotto casa e l'è preso quasi un colpo. Ecco, queste sono le cose che nessuno si augura, gli amori impalpabili che possono provenire da sguardi, incontri fugaci, da complicità non espresse, devono avere sempre questo tono della leggerezza. Trovarsi un abbrutito sotto casa, per quanto sia affascinante, non fa piacere, deve essere un graduale avvicinarsi. Un altro ascoltatore mi scrive su Facebook che lui ha semplicemente scritto il suo indirizzo di posta elettronica sotto il biglietto della sua dirompettaia in scompartimento di treno, col quale sarà scambiato soltanto gli sguardi, e lei dopo qualche settimana le ha risposto via mail. Quello che è accaduto poi non ci interessa. Walter da Piacenza, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è sempre un piacere sentire la tua trasmissione, anche se ci siamo già parlati per un altro argomento quasi analogo a questo. Sì, ma evitate le premesse, voi che ascoltate, no, che ascoltate con più assiduità. Andiamo subito al punto, sapete che lo stile è quello di raccontare storie, non ci facciamo con... Sì, io faccio un mestiere dove sono trasportatore, di conseguenza sul camion siamo alti, vediamo tutte le macchine, le colonne ne facciamo tante, perciò e vedete tutto dentro non lanciando, esatto, non lanciandomi dei fiori si vede che piace. Cosa succede? Tante volte succede che ragazze ti fanno il sorriso, il saluto, ti mandano addirittura i bacetti, ti fanno addirittura dei gesti, però la colonna va avanti. Cioè, guardano verso poi... l'alto per arrivare con lo sguardo alla cabina. E c'è questi scambi di sguardi che ecco che sa perché a me non è mai capitato a me purtroppo di guardare volte. Verso l'alto non mi viene naturale no, perché tu il maschiacci non li guardi, se c'era una bella donna magari verso l'alto guardavi. Comunque questi momenti sfuggenti che ti fanno vivere un momento di gioia, che poi la giornata ti cambia tutto, che la giornata è bella perché hai avuto questi sorrisi, perché hai avuto questi saluti, ecco, perché poi non le vedi ai sorrisi come fai ad andare incontro? Poi fai anche tu, segni la targa della macchina, poi le insegni? No, io mi è capitato una volta sola, dove c'è stata una bellissima mora con gli occhi azzurri, che ci siamo scambiati questi saluti e sorrisi, e dopo io gli ho fatto segno fermati più avanti. Io dopo più avanti. Ma la mora guidava o era nel sedile accanto? Perché no, nel sorpassarti con sua madre, guidava con sua madre. Gli ho fatto segno fermati più avanti, però e cosa fatti? Sorpassa a destra? Ah. No, era in colonna, poi la sua colonna in colonnata, su una più corsi. Ecco, dopo qualche chilometro c'era questo parcheggio a riservizio, ho detto fammi vedere se è lì. Mi sono fermato e l'ho trovata, sono andato là, ho avuto il coraggio e le palpitazioni a mille di dire ciao, io sono quello che ti ha salutato. Ci siamo conosciuti, incontrati, ci siamo sposati, abbiamo una figlia di 11 anni, 20 anni. Ah, è diventata tua moglie? È diventata mia moglie, siamo felici, l'amo e la meraviglia. Quindi era in cerca di marito lungo le autostrade? Ma non è questo, è stato il cosiddetto colpo di fulmine. Purtroppo il colpo di fulmine. Non mi sospettisce la presenza della madre a bordo, che secondo me dava la prima scrematura sui possibili mariti. Comunque, se sei felice per 20 anni, figurati se io posso mettere in crisi la tua storia. Però non vado d'accordo, l'unico problema. Eh beh, figurati, era presente dallo scoccare del primo sguardo, immagino che sarà una presenza sacrosanta. Pretendeva qualcosa perché la sua figlia aveva un posto molto molto importante nella società. Pretendeva qualcosa, ma non aveva importante. In quel momento lì era lo sguardo, era gli occhi, era quel feeling che passa, che lo senti a brivido di pelle, che lo senti le palpitazioni del cuore, poi la ritrovi. Comunque ammirevole il coraggio di tua moglie di essersi buttata all'avventura con il camionista nonostante la presenza ingombrante della madre accanto, quindi devo dire che ha avuto un attimo di intrepidezza, a meno che non fosse un piano di famiglia di cui era complice, che è stata giustamente premiata. Grazie. Vittorio, buongiorno, da Milano. Buongiorno, ascolti un attimo, io di queste situazioni ne ho vissute un po', quando ci sono delle volte che c'è della gente che ti guarda e anche tu capisci che c'è qualcosa di... E dove accade questo? Può accadere al bar o quando pigli in stazione, ogni in luoghi anche così, stai passeggiando, roba del genere, un sorriso. Ma lei si sente particolarmente avvenente perché la gente no, lo guardi? No, io non sono avvenente. Sì, avvenente sì, perché sono un pirata, per cui quando vedo un pirata... Cioè pirata che vuol dire? C'è un occhio bendato? Sì, sono vestito, sono un pirata, tutti quando mi vedono mi dicono lei è il pirata. Ma pirata in che senso? Scusi, ha un occhio bendato, l'uncino al posto della mano? No, nel senso c'ha una barba lunga, una bandana e mi chiamano il pirata. Ah, ecco, si atteggia un po', è un personaggio, ecco. Ecco, un personaggio. Fa colpo, fa colpo. Faccio colpo così, il sorriso, questo senso di comunicare vivamente qualcosa che ti rende comunque felice. Sì, ma dove lascia poi traccia della sua richiesta? Ecco, il problema è questo, che tante volte non si ha il coraggio di lasciare le tracce, perché vedi che è una come cosa un pirata bucaglia. Che affronta i bucanieri più feroci non ha il coraggio di dire a una signora, una ragazza no, il coraggio mi piace particolarmente. No, il coraggio non è una questione di coraggio. Io tante volte vado lì e dico, guardi, ha un'espressività bellissima e poi me ne vado. Perché un'espressività comunque... bellissima. Ma, e questa frase non provoca poi grande commozione, immagino. Pronto? Dipende dalla persona, ognuno la piglia come un'espressività vuole. Bellissima. Mi sembra un po' difficile, nel senso, sembra bello allora, dire un buon sì, odore. Un sorriso, uno sguardo, un dettaglio che può essere che ti ha attratto. E poi io me ne vado perché non ho il coraggio di scrivere e di tampinare la gente. E quindi rimane sempre così, senza bottino. Sì, sempre così, ma io sono contento perché è quelle cose che vivi al momento. Non è che ci deve essere un rapporto. Ma certo, il fine della filibusta cose. È la vita in sé, non è poi fare bottino o arrembare navi, a fare arrembaggio a navi. Grazie, sentiamo adesso Marco, provincia di Alessandria. Sì, solo buongiorno. Uomini. Sì, buongiorno. Signore, siate meno restie a raccontare, mica dovete raccontare, avete raccontato le vostre più riposte, intime d'azioni, non potete raccontare di uno sguardo incrociato, non so perché questa mattina c'è questa latitanza femminile. Marco, andiamo avanti. Sì, niente, io sono un giovane insegnante, ho 34 anni, stamattina giravo per Alessandria a portare domande d'assunzione e non trovavo un indirizzo, così mi è capitato, vagando, perché nessuno mi dava l'indirizzo giusto, di incrociare una signora gentilissima che mi ha spiegato tutto per bene, addirittura mi ha detto che abitava in quel luogo, in quella via, prima. Le ha dato anche l'indirizzo? Sì, mi ha dato l'indirizzo preciso e è stata un'apparizione di un paio di minuti, non di più, folgorante anche perché io ero affaccendato in tutt'altro, non immaginavo di... incrociare una persona. E adesso è pentito di non aver lasciato qualche segnale in più di attenzione a questa signora? Non sono pentito, no, si è svolto tutto in modo molto naturale, però accade quello che diceva lei all'inizio della trasmissione, cioè adesso c'è il desiderio di in qualche modo rincontrare, rivedere. E come fa a rincontrarla? In effetti non è semplice. O si adottano sistemi tipo gli annunci di cui parlavate voi, oppure si cerca tanto lo sta dicendo già la radio, c'è una buona possibilità che la signora di Alessandra l'ascolti. Sa che a questo quindi... non avevo pensato, è possibile, perché no? Magari inconsciamente non ci avevo neanche pensato. Ma lei cosa sarebbe disposto a fare? Ritornare in quella strada come un segugio, fare avanti e indietro finché non rintraccia? No, mi parebbe troppo gravoso per me e per gli altri. No, siccome gratis con... come abbiamo aperto noi, mica un po' di fatica bisogna farla. Sì, quello è vero. Però siccome bazzico spesso per Alessandria è possibile, e Alessandria è una città ma non è una metropoli, è anche possibile che mi accada per puro caso. Però diciamo glielo auguro, non la sento molto determinato e non la sento nemmeno molto disponibile a mettere in gioco gli aspetti più profondi della passione, però può essere questa signora si accontenti e quindi ascoltata la trasmissione alla radio si rimetta in giro di questo insegnante che lascia in giro domande di assunzione e magari lo faccia felice invitandola a prendere un caffè. Melog 2.0. Cerco quel ragazzo di carnagione scura, moro, con un dilatatore di metallo che era in palestra oggi verso le 14 a Sassuolo. Indossava una canottiera marroncina e bermuda mimetici. Sono molto più sfrontate le signore quando lasciano i loro messaggi in bottiglia, piuttosto di quando debbano telefonare poi a Melog. Questa signora è stata colpita dall'uomo con il dilatatore di metallo tra le mani, oggetto di cui non voglio sapere altri particolari, già mi inquieta in sé sentirlo così descrivere. Però tutti questi messaggi, abbiamo fatto sentire dall'inizio, sono messaggi reali, concreti, di persone che hanno volutamente voluto dare un seguito al loro incontro fatale. Federico Romanzi, buongiorno, l'abbiamo recuperato. Buongiorno. Ecco, questi messaggi da dove vengono? Come li ha raccolti? Questi messaggi li abbiamo raccolti sul nostro sito, il nostro portale, eurogame.com, che in sostanza si prefissa proprio di dare quella possibilità di cui lei ha parlato e di cui ha fatto domanda ai suoi ospiti oggi, cioè di dare la possibilità di recuperare questo tipo di incontri casuali che avvengono un po' a tutti i giorni. Voi avete trasposto, diciamo, con uno strumento informatico la bacheca che si trova sui giornalini buttati nelle metropolitane, ecco, più o meno. Assolutamente. Ecco, è possibile tracciare una tipologia di persona che si affida a questi messaggi? Poi avete, diciamo, voi poi un feedback, un'informazione di quanti poi questi messaggi raggiungono il destinatario o la destinataria? Inizialmente noi non avevamo assolutamente, non avendo mai fatto nulla del genere, insomma essendo nuovi di questo tipo di situazioni, noi non sapevamo chi in effetti avrebbe utilizzato di più il servizio. Inconsciamente abbiamo tutti teso verso, insomma, un'età abbastanza adolescenziale, giovanile, diciamo, o poco sì. Più. Sì, invece siamo rimasti sorpresi dal fatto che molte persone, insomma, scrivono ed hanno anche molto più di 30 anni, 40, 50, eccetera, e quindi, insomma, diciamo che l'interesse è abbastanza, in maniera abbastanza... Ma non la sorprende anche lei il fatto che quel minimo di sfrontatezza che l'età dovrebbe permettere non sia presente in questi momenti? Sembriamo ormai così disinibiti, così pronti ad ogni esperienza accavallante e conturbante, e troviamo così difficile incrociare uno sguardo e dire una persona: guarda quanto mi ha colpito questa mattina. Mi sorprende ancora di più se penso che magari in alcuni social network ci viene data come utenti la possibilità di condividere le foto di cose indicibili successe la sera prima, e lo facciamo, e magari non abbiamo la sfrontatezza, appunto, di che poi magari sfrontatezza non è, insomma, no, di andare a di fare quel passo in più e esternare con parole quello che sentiamo. Anche perché, sa, uno sguardo incrociato è qualcosa di non detto, di impalpabile, richiede, se uno va a vedere le carte, una risposta di tipo poetico, che probabilmente è la più difficile da dare. Risposte pratiche, concrete, viscerali, forse è abbastanza più semplice darle: usciamo, vediamoci, facciamo, la patonza deve girare, tutte queste cose qua. È paradossalmente più semplice, più immediato, richiede meno impegno. Quello che stamattina vorremmo far capire, ma lei me lo conferma in questo momento, è che la risposta poetica è la più difficile da dare. Perché? Perché non si hanno gli strumenti, perché fa parte di un'intimità che non vogliamo e non sappiamo condividere. Sì, probabilmente invece questo tipo di approccio ci mette un po' al sicuro in questo senso, e ci tutela da questo tipo Quindi le risulta che dal vostro sito eurogame.com esiste possibilità di avere poi una sorta di bacheca in cui è possibile leggere chi ha avuto l'impressione di aver fatto l'incontro fatale, di aver avuto un attimo corrisposto, può andare a vedere e può rimandare il messaggio, può ritrovare la persona. Sentiamo Piera, buongiorno, finalmente. Buongiorno. Oh, finalmente una donna. Perché c'è tanta reticenza femminile a parlare di questo? Me lo spiega Piera? Non lo so esattamente, io posso raccontare quello che mi è successo. È un incontro fortuito all'interno di un grande bar nel centro città. Quale città? Bologna. Ah, Bologna. Un uomo distinto, io sono una signora cinquantenne, insomma, diciamo distinta, una mamma di famiglia, perciò senza nessuna velleità di acchiappare o conquistare nessuno. Beh, però sarà una signora che lancerà comunque dei messaggi di avvenenza. Certo, però insomma ha più un pubblico femminile, diciamo, che maschile. Cioè, allora, piace più alle donne che agli uomini? Esatto. Io praticamente incrocio. Le donne sguardo. Sono molto più attente nell'osservare. A me piacciono di più i complimenti femminili di quelli maschili, perché sono più veri, riguardano un pochino più il totale. Diciamo che gli uomini non sanno più farli, forse è meglio dire questo. Esatto, e le donne sono più raffinate. Comunque incrocio questo sguardo e questo personaggio, un sessantenne, un signore ultradistinto. Un umarello praticamente. No, però tutt'altro che un umarello, cioè proprio uno di fascino, elegante, guardo anche i dettagli, tutto molto griffato, cartella, cioè io faccio il mio viaggio, penso possa essere, non so, un uomo d'affari. Lei era già pronta all'intimidazione al di là di tutte le sue premesse? No, comunque oniricamente, mica dico materialmente, sì. Certo, è chiaro. E seduto a un tavolino con un amico e incrocio questi sguardi, cioè mi sembra che sia corrisposto il mio sguardo e viceversa, insomma io accetto il suo. E quindi? Perciò io vado, torno a questo bar, che non è il mio bar perché è un bar di centro, un paio di giorni dopo e questi due sono sempre lì. Lei è acchittatissima naturalmente. E mi sembra sempre che continui questa sorta di feeling ottico. Il terzo giorno, cioè no, non giorni successivi, ma casualmente ritorno in centro e questo personaggio stessa ora, evidentemente è un suo appuntamento fisso, e va bene, lo rincontro. Mi sembra di avere fatto proprio la conquista del secolo, la conquista mentale, quella che ogni donna sogna e per cui è gratificata, che va a finire in nulla, non... Beh, mica sempre, a volte può anche andare a finire. Si arriva all'osso del prosciutto facilmente, a forza di assaggiare. Non voleva essere questo, cioè è sufficiente per dare energia alla giornata. Passa un po' di tempo, prenoto una visita specialistica presso il luminare di turno ed è lui. Cioè, io apro la porta e vedo il mio uomo dei sogni. Non voglio entrare nella sua sfera privata, ma che tipo di visita era, ce lo può dire? È una visita specialistica. Cioè è un neurologo in pratica. Ah, beh. Quindi? Praticamente incrocio lo sguardo, lo vedo, dico, come dire, sono a casa. Dottore, penso che noi ci conosciamo. Lui mi guarda e dice, assolutamente no, credo di non averla mai vista. Beh, molto professionale, non poteva... No, ma proprio si comprendeva che non c'era nemmeno niente, cioè lì non era passato nulla in pratica, era tutto successo nella mia testa. E lei è rimasta in terapia? Non sapeva assolutamente. È rimasta in terapia da questo medico? No, per fortuna non ho avuto bisogno di proseguire questa strada, e cioè dopo non ci siamo mai più visti, però questo mi ha portato bruscamente, mi ha riportato drasticamente alla realtà, adesso penso che incrocerò gli sguardi femminili che almeno sono critici sull'abbigliamento e il trucco. Ognuno fa le sue scelte, non sono certo io, ma io mi va di pensare che il neurologo, da buon professionista, non ha voluto assecondare il suo desiderio, l'aveva capito benissimo nella sua raffinata conoscenza dell'animo umano, e in quel momento, fra la scelta di tenersi una paziente e lasciarsi andare a una storia passionale con la signora bolognese, ha fatto giustamente, eticamente, deontologicamente la prima scelta. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, ci sentiamo domani. On est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.